Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Alle 10 e 7 minuti inizia Il riposo del guerriero. Buona domenica, Stefano Gallarini. In effetti un vecchio detto recita: marzo pazzerello, c'è il sole, apri l'ombrello, è quasi primavera, oggi piove, poi c'è un po', non si capisce niente. Comunque sia, oggi, siccome la primavera sta per iniziare, quantomeno vorrei che iniziasse nel vostro cuore, dentro di voi, nelle cose che fate, oggi parleremo di colori, i colori che dovrebbero appunto così dare sfogo a questa bella stagione, alle nuove cose. In primavera ci si dice di tutto, adesso faccio questo. I buoni propositi, più che all'inizio dell'anno, arrivano con l'inizio della primavera, e poi alcuni sì, riescono ad aver seguito, altri invece no, ma di questo noi non ci occupiamo. Ci occuperemo invece dei colori, ma prima ci occupiamo dei numeri, quelli di telefono ovviamente, i vostri messaggi al 349-238-6666 e poi come sempre il numero verde, perché anche oggi alle 10.30, alle 11.30 giocheremo. Quando sale su e spalanca il blu dell'immensità. Questo infatti è il primo indizio del mistero in 24 minuti. Per voi la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it. E ovviamente più indizi ascolterete, più il premio si abbasserà, ma intanto questo appunto è il primo indizio. Il numero verde, potete prenotarvi da adesso, 800 24 00 24. Oggi appunto parliamo di colori, c'è anche la nostra pagina Facebook che è Il riposo del guerriero, e grazie ai colori andremo a conoscere personaggi curiosi, professioni particolari, e speriamo come sempre di divertirci. Gli amori e non età. Continuiamo a suonare e lavorare in città, noi che abbiamo un po' paura, ma la paura passerà. Siamo tutti in ballo, siamo sul più bello, in un acquarello che scolorirà. Che scolorirà. È tocchino di acquarello, perché insomma i colori nell'acquarello ci stanno bene, e per lui scoloriranno quel futuro, per noi no, invece cerchiamo di dargli assolutamente. Pensate che questa canzone, quando venne scritta da Tocchino molti anni fa ormai, era stata pensata per i bambini, poi ebbe un grandissimo successo invece e interessò molto di più il mondo degli adulti. Detto questo, parliamo subito con Margot Zanni, che saluto. Buongiorno Margot. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Margot è giornalista e si occupa di stile e anche del contatto, diciamo, con i designer, e collabora con Dalani.it, che è un sito che offre shopping online per la casa e l'arredamento. Cominciamo proprio dalla casa, visto che molti di voi in questo momento se la stanno godendo, magari, perché la domenica mattina funziona così, e cominciamo con i colori della casa. C'è un colore che non va mai di moda, per esempio una casa, forse il bianco, mi sbaglio, Margot? Ma guarda, un colore che non passa mai di moda è proprio il bianco. Alla fine lo scegli sempre sia per pareti che per gran parte degli spazi vuoti. Ho detto che non va mai, ma volevo dire che non passa. Hai compreso perfettamente la domanda, scusami. Comunque no, andiamo avanti. Ti dico, il bianco su tutti non passa mai di moda, perché alla fine vinci sempre. Quest'anno va anche tanto per le pareti, questo grigio chiaro che alla fine regala luce alla casa, che è sempre un po' quello che cercano tutti. Allora Margot, cerchiamo di regalare luce anche al segnale del telefono, perché non cominciamo a non sentirti più, non so, ne hai pochissimo, quindi ti richiamiamo, e intanto gli aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. Abbiamo recuperato Margot Zanni, giornalista che si occupa di stile. Margot, eccoci. Sì. Dicevamo del bianco, dicevi questo dà luce, per cui è un colore ovviamente che non passa mai di moda. E ora, esistono però le mode nella scelta dei colori degli appartamenti, delle case o degli oggetti? Guarda, sì, esistono anche quelle. Non si può parlare di vere e proprie tendenze come nell'abbigliamento, però se vuoi una curiosità, quest'anno il colore che vince su tutti anche per la casa è il color carta da zucchero, non tanto per pareti o pitture in generale di muri, ma di accessori, di complementi d'arredo, eccetera. Insomma, questo colore potremmo vederlo in tante case durante il 2012. Ecco, non c'è il rischio che in una casa un colore dominante poi dia fastidio, cioè stanchi con il tempo? Sì, no, esatto, assolutamente. Infatti ti dico, appunto, tutte le tendenze anche di colori della casa sono toni pastello, quindi vincono tanto i toni naturali, del beige, del tortora, del bianco, insomma colori forti, accesi come fucsia, arancione, azzurro forte, ci sono solamente negli accessori, ecco, ci si sbizzarrisce negli accessori, nell'arredo tavola, nell'arredo bagno, di tutti i complementi, perché alla fine sono colori divertenti che possono essere abbinati e possono anche sparire in fretta. Parliamo delle pareti invece, visto che magari con la primavera si decide di dare una rinfrescata alle pareti di casa, no? E quindi lì arriva il dubbio, scegliere il giallino, il bianco, il verdino, l'azzurrino. Cosa possiamo fare? Come funziona? Guarda, personalmente non amo nessuno di questi colori. Magari eccola, sceglierei una sola parete della casa, magari non il salotto, che è la stanza principale, ma magari una parete colorata in cucina o, che ne so, in bagno oppure in camera da letto, però assolutamente una sola su quattro, perché poi stanca troppo ed è anche più facile evidentemente poi da coprire se il colore preferito non è più quello e passa di moda. La tua casa ideale? Guarda, la mia casa ideale deve essere all'ultimo piano, piena di luce, e io sceglierò sicuramente il bianco. Ecco, quindi c'è anche più facile, perché cambiare quello è un pochino più semplice. C'è un colore che invece in una casa non andrebbe mai messo o usato? Guarda, per quanto riguarda appunto le pareti, sicuramente il nero, colori troppo scuri, perché davvero tarpano le ali a qualsiasi sensazione di calore o di luminosità. Poi in realtà non ce n'è nessuno, insomma, in realtà la regola del mixaggio dei colori è 3, non mixarne mai più di 3 e scegliere qualcosa che vada bene uno con l'altro. Quindi se si vuole proprio usare anche il nero, però magari nero con bianco o beigeolino, insomma, cercare sempre di non far vincere nessun tipo di colore sull'altro, insomma. Ecco, per finire ti chiedo questo, Margot, tu nella tua esperienza hai notato se c'è un'associazione fra chi sceglie determinati colori come dominanti in una casa e un certo tipo di atteggiamento della personalità? Perché secondo me c'è questo legame, però magari non è mai, guarda, fatto caso. Guarda, sì, no, assolutamente, cioè, i colori alla fine rispecchiano la personalità e anche lo stile delle persone, quindi sicuramente per esempio, ti faccio questo esempio, chi sceglie il bianco e il beige sceglie anche oggetti di design più sofisticato, non so come dirti, anche oggetti di design più moderni. Invece chi sceglie colori come il grigio, il nero o il marrone, o anche le fantasie come tigrato, zebrato, ha anche un gusto un pochino più particolare, più corposo, più ricco. Quindi sicuramente sono approcci anche all'acquisto differenti, cioè sai esattamente che chi sceglierà un colore nero per la casa, un colore marrone, però avrà anche oggetti di arredamento diversi, insomma di stili un po' più retro rispetto al moderno. Ok, grazie Margot, abbiamo insomma alla fine concluso che il bianco vince su tutto, perché dobbiamo stare tranquilli, restiamo su lì. Grazie Margot, buona domenica, ciao. Ciao a voi. E dal bianco invece passiamo al rosa. Michele Rack, buona domenica. Buona domenica. Michele Rack è esperto di Commissione Europea per il Patrimonio Culturale, ma ha anche pubblicato qualche anno fa un libro intitolato Rosa. E di rosa parliamo perché volevo chiederti, Michele, come sta andando con il romanzo rosa, che ha avuto un grande successo nel passato, ma che forse oggi ha cambiato un po' le sue linee? Beh, il rosa di molti anni fa, di non tantissimi anni fa, era un rosa costruito industrialmente in alcuni luoghi del nostro piccolo pianeta. Si costruivano gli intrecci e si vendevano poi variamente rifatti nei vari paesi, in più di 100 paesi così della Terra. Lo stesso intreccio era prodotto in Canada, per esempio, veniva venduto indifferentemente in Arabia Saudita, in Argentina o in Italia, variamente adattato a seconda delle circostanze. Quindi non conosce confini? Non conosce confini, non conosce confini perché il problema non conosce confini, cioè il problema della unione tra due persone, quello dell'amore, sì, naturalmente. Man mano il mercato poi è riuscito a articolare diversamente questa questione, quindi ci sono state le collane dedicate al primo amore, poi al secondo amore, e e poi ambientate diversamente negli ospedali, negli aerei e, come ahimè sappiamo, anche sulle navi. Insomma, sempre di amore si tratta, certo, dovunque certo, sia. È una cosa, amore è una cosa delicata e difficile, direi, ed è l'incontro tra due persone. Nel Rosa era tutto semplice perché le persone non avevano una identità precisa, erano diversi che si incontravano, poi incontravano qualche ostacolo e poi lo superavano felicemente. La storia quindi si concludeva lì. Invece, naturalmente, sappiamo che nella nostra cronaca di vita le cose vanno diversamente. Sì, non sono proprio così rosa, no, appunto. No, non sono appunto rosa, non sono tutte relative ai giovani, anzi quelli che pensano che appunto il momento epocale dell'amore sia appunto l'adolescenza e cose simili o all'incirca quell'età, si sbagliano. L'amore si distende lungo tutta la vita, per fortuna. Ecco, ma oggi il romanzo Rosa è cambiato perché sono cambiati i tempi è cambiata anche la maturità dei lettori, oppure è per un altro motivo? I lettori erano maturi, molto maturi, perché il romanzo Rosa insegnava e insegna ancora una cosa elementare, il protocollo, cioè cosa deve fare un uomo per avvicinare una donna e viceversa, e anche altre combinazioni, naturalmente. Lezioni di vita, quindi, in qualche modo. Sì, lezioni di, forse di, anche di educazione, di stile un pochino. Quel modo di fare è naturalmente cambiato perché è cambiato la composizione della nostra società, i tipi di avvicinamento, le ragioni con cui ci si avvicina, e persistono soltanto le ragioni fondamentali dell'incontro amoroso, cioè che devono crederci tutti e due, naturalmente non devono tenere conto degli impiccioni che si mettono in mezzo, e devono avere un progetto oltre l'accoppiamento. Invece l'accoppiamento riesce a molte persone, ma il progetto di vita riesce a pochissime persone, e quindi si è complicato il problema del Rosa. In qualche maniera si sono complicati quindi anche i romanzi che tentano di parlare. Ecco, quindi possono finire anche male oggi i romanzi Rosa, o no? Sì, come gli amori, naturalmente, possono finire male. Quindi sono anche un po' meno rosa, forse la sfumatura è un po' più sul grigio. Sì, infatti, già una decina di anni fa, forse una quindicina, i romanzi finivano tutti quanti bene, naturalmente. Poi hanno cominciato, man mano che si complicavano i caratteri richiesti dei singoli ambienti, a complicarsi anch'essi come storie. Mi ricordo che la maggiore casa produttrice di Rosa internazionale mi sottopose un quesito se era opportuno inserire, per esempio, un malato di AIDS in una coppia. Quanto avrebbe pesato sulla vendita di quella collana? E com'è andata? Questo non lo so, perché naturalmente le case editrici non dicono mai la verità. Certo, quindi non è dato di sapere, insomma, non possiamo capire se. Ma oggi il romanzo Rosa ha lo stesso successo comunque del passato o ne ha meno? Ne ha meno per la ricchezza delle fonti di informazione che sembrano protocolli amorosi, per esempio i giornali di chiacchiere, diciamo così, i romanzi giornali che parlano di vicende dei divi oppure delle persone che compaiono in televisione o che parlano per radio, per esempio. Questo è il problema. Questo tipo di storie non raccontate alla meglio sul romanzo raccontato. Certo, per cui insomma si aprono le possibilità e quindi il romanzo Rosa in sé perde un pochino di appeal. Ti ringrazio Michele Rack e intanto buona domenica e grazie per il tuo contributo. Vi ricordo il libro che è stato scritto è Rosa, la letteratura del divertimento amoroso, edito da Donzelli. Buona domenica ancora. Prima di presentare il prossimo ospite, invece, vi faccio ascoltare questa sorta di breve monologo, se vogliamo, di Miranda, protagonista del Diavolo Veste Prada, famosissimo, che l'abbiamo ascoltato tante volte, però ogni volta si ascolta volentieri perché la scrittura proprio di questo dialogo, dal mio punto di vista, è straordinaria. Ma dice una grande verità e tra poco parleremo proprio di quella verità. Tu pensi che questo non abbia nulla a che vedere con te? Tu apri il tuo armadio e scegli, non lo so, quel maglioncino azzurro infeltrito, per esempio, perché vuoi gridare al mondo che ti prendi troppo sul serio per curarti di cosa ti metti addosso. Ma quello che non sai è che quel maglioncino non è semplicemente azzurro, non è turchese, non è lapise, è effettivamente ceruleo. E sei anche allegramente inconsapevole del fatto che nel 2002 Oscar De La Renta ha realizzato una collezione di gonne ceruleo e poi è stato Yves Saint Laurent, se non sbaglio, a proporre delle giacche militari color ceruleo. Sarebbe una giacca qui. E poi il ceruleo è rapidamente comparso nelle collezioni di 8 diversi stilisti. Dopodiché è arrivato poco a poco nei grandi magazzini e alla fine si è infiltrato in qualche tragico angolo casual, dove tu evidentemente l'hai pescato nel cesto delle occasioni. Tuttavia quell'azzurro rappresenta milioni di dollari e innumerevoli posti di lavoro, e siamo al limite del comico quando penso che tu sia convinta di aver fatto una scelta fuori dalle proposte della moda. Quindi in effetti indossi un golfino che è stato selezionato per te dalle persone qui presenti in mezzo a una pila di roba. Ecco, non so se Antonio Mancinelli abbia qualcosa di ceruleo nel suo guardaroba. Buongiorno Antonio. Buongiorno a Ciao. Tutti voi, ho solo gli occhi ceruleo. E basta, va bene. Antonio Mancinelli è caporedattore di Marie Claire. Il riposo del guerriero. La puntata di oggi si occupa di colori e quindi abbiamo parlato di arredamento, abbiamo parlato di romanzi rosa e non possiamo non parlare di moda. Antonio Mancinelli, caporedattore di Marie Claire, è al telefono. Antonio, ancora ciao e appunto Buongiorno. Parliamo dei colori della moda che, come ci insegna Miranda, non sono mai i colori che pensiamo che siano. Cioè il turchese in realtà è un ceruleo. Il turchese è un'altra cosa, certo. Però ci sono dei momenti. Cosa ho detto? Certo, è ovvio. Esatto, ci sono dei momenti di e non è un pervink soprattutto. per cui ci sono dei momenti anche di grande comicità per chi lavora nella moda quando si tratta di definire, non so, quello che per le persone normali, per noi sarebbe un bianco. Se posso, non so, bianco, un rosso, se posso così dire qualcosa di personale, qualche giorno fa sono andato a una grande griff e ho additato al, non si dice commesso, si dice venditore, un'altra cosa, ho additato al venditore una camicia bianca e mi è stato detto, ma la vuole talco, gesso o ghiaccio? E ho detto, quella bianca, no. E quindi, ecco, cioè, io la cosa che mi diverte moltissimo è immaginare chi passa le notti a dire, insomma, questo giallo lo definiremo golden shower o girasole svenuto, perché purtroppo c'è bisogno anche di questo, purtroppo per fortuna, cioè di dare dei nomi anche molto fantasiosi a dei colori che per noi sono, come dire, sono quelli, insomma, per colori base sono 5. Certo, ma voglio dire, perché quello fa la differenza, no? Quello fa la differenza, oltretutto, questo sì, non so se si possono fare dei nomi, non so se voi sapete che c'è una grandissima multinazionale, come dire, che determina un po' l'andamento dei colori, che è Pantone, no? Sì. Il famoso Pantone, che ogni anno dà il colore dell'anno, sia per la moda che per l'arredamento, diciamo in generale per lo stile. E l'altro anno, devo dire, c'è stato un brivido che ha percorso tutte le redazioni e giornali di moda quando da Pantone è promanato che nel 2011 il colore che sarebbe stato dominante nelle nostre vite, nella moda e così via, sarebbe stato il caprifoglio. Ora, che sarebbe, di noi è un sa verde. Che colore ha il caprifoglio? Beh, sarà, una tonalità di verde, immagino. Sbagliatissimo, è una tonalità di rosa, un po' corallo, tanto per darci l'idea, sì. Mentre invece quest'anno, per il 2012, ci è andata un filo meglio, perché il colore è un tangerine tango, che anche qui è un surreale accostamento. Avrà a che fare con il rosso. Che in Argentina, poi balla il tango e non si sa perché. Comunque, come ad esempio non esiste mai il nero, esiste il nero profondo, il nero lacustre, l'antracite. La notte, immagino. Assolutamente, la notte è anche più blu, è un nero che vira al blu, perché sì. Appunto c'è anche il color notte e sì, sono comunque, ci sono proprio degli studi che in qualche modo elaborano dei nuovi nomi ai colori che ci sono in passerella, per cui non è più rosa ma è ciclamino, non è più viola ma è giunchiglia, e quindi devo tutti questo linguaggio abbastanza criptico, molto da adepti, che sicuramente ha dal lato un suo fascino, dall'altro, perdonatemi, anche un aspetto assolutamente divertente. Ecco, ma perché, vedi Antonio, da un certo punto di vista dare un nome particolare a un colore, lo capisco nel momento in cui dai un'emozione, cioè insieme a quel colore, non so, se tu dici il nero notte, hai aggiunto proprio un'emozione a quel nero, e quindi questa è una forza, ma perché è associata a qualcosa che conosciamo. Se tu invece un colore lo chiami, com'è, il pervinca, vabbè, ma prima ne hai detto un altro che non... Il caprifoglio, vabbè, ecco, allora uno, io penso a un animale, cioè il caprifoglio mi mente un animale con le corna, capito? No, ma abbiamo consultato tutti i vocabolari Google, e alla fine il caprifoglio sono questi fiorellini rosa. Allora dopo avremo la nostra glottologa Francesca Dragotto e probabilmente le chiederemo qualcosa sul caprifoglio, immagino di sì, ma... Io voglio dire, non rischia tutto questo di mettere un po' in imbarazzo l'acquirente, cioè quello che entra nel negozio e che cerca, come hai fatto tu, la camicia? Ma da un lato sì, dall'altro devo dire fa parte anche, adesso sono serio, sono fuori da ogni ironia, fa parte anche, come giustamente dici tu, di quel tipo di marketing che noi chiamiamo marketing immateriale, cioè che non ha più a che fare con l'oggetto in sé per sé, ma è tutto quell'aura di fascino per cui avere, non so, la camicia color oceano invece che blu ti fa sentire un po' più fico, o comunque giustifica in qualche modo anche la spesa di una camicia di cotone che di una grande griffa, cosa normalmente il doppio che se comprate in un negozio. Se ti va bene, certo. E quindi fa parte sicuramente di tutto quanto un meccanismo di aura, come dire, di fascinazione, di quello che in gergo modaiolo si chiama glamour, che ormai è fondamentale per vendere prodotti, per cui appunto, poi per carità, bisogna dire che ci sono anche delle maison che hanno fatto di un certo colore il loro il rosso Valentino, credo che sia il rosso Valentino, non è rosso Valentino, è l'H, anche qui ti devo riprendere, è un rosso lacca che è diventato poi talmente famoso, da cui appunto il famoso rosso Valentino, e sono stati anche inventati, penso al Grege, che è stato veramente inventato, non c'era prima, da Giorgio Armani, che è un misto, una sciarada tra grigio e beige, che noi definiremmo fango, insomma, un colore sostanzialmente... ecco, vedi, fango non è emozionale, Grecia, fango sì, non è poi lo stesso colore. Fango non è emozionale, né tantomeno glamour, però certo. È quel... Sì, il colore è quello lì. Siamo in quella zona lì. Fango, ecco, poi devo dire, nell'ambito del beige meraviglioso, c'è corda, tè, sabbia bagnata... che è diverso dal sabbia, ovviamente. Beh, certo, bagnata è un po' più scura, no? Certo, forza, sì. E quindi devo dire, tutto questo sicuramente fa parte di un tipo di meccanismo. Penso però, per esempio, anche ad Hermès, che ha fatto dell'arancio il suo, come dire, no? Il suo segno distintivo, per cui addirittura c'è l'arancio Hermès, che è quello... quell'arancione molto sparato, quello un po' delle tuniche, dei bonzi, molto forte, molto deciso. E sicuramente c'è appunto un tipo di relazione tra tutto il mondo della moda e quello dei colori, anche se poi alla fine non si capisce perché tutti i giornalisti di moda si vestono sempre di nero, e lì questo è il vero mistero. Ma di questo infatti avevamo anche parlato, ti ricordi che abbiamo fatto la puntata sul bianco e il nero? Esatto. E questo esserci non è, anche gli attori, no? Si vestono sempre di nero, sì. Perché è il colore non colore. Antonio, l'ultima domanda che ti faccio è questa: ma voi addetti ai lavori, di fronte a queste terminologie così colorite, esatto. come vi trovate, anche spiazzati, spaesati, perché se non ve le dovessero spiegare potreste avere qualche difficoltà? Devo dire che al momento, quando tu dici, non so, quest'anno va di moda il colore temporale, diventa complesso, nel senso che uno dice, ma sarà un grigio scuro, sarà un grigio chiaro, sarà un blu, diventa, come dire, abbastanza complicato anche trasmettere questo tipo di, sono comunque notizie, e comunque, come per esempio l'altro anno gli addetti ai lavori hanno dovuto spiegare che andava molto di moda, non so se vi ricordate la scorsa estate, il famoso color block. No, sì. Ma come no? Vabbè, ma io non sono. Gallerini, meno male che tu sei alla radio, così almeno non ti si vede. Il color dire? Block sì. È questo accostamento assolutamente azzardato di colori assolutamente stridenti tra loro, per cui fucsia e verde menta, giallo, ultramarino e turchese insieme, per cui avere 4-5 colori sparatissimi tutti insieme, uno per la giacca, uno per i pantaloni, l'altro per la polo. Quello che definirei un'arrecchinata, ecco, no, è un color block. Ho capito, vedi. Ecco, e appunto l'altro anno ha dominato veramente le passerelle, quest'anno invece assolutamente no, si va su tutta la gamma dei grigi, anche lì i grigi sono infiniti, c'è il grigio fumo, c'è il grigio antracite, c'è il grigio miniera, c'è il grigio Londra e così via, che diventa appunto abbastanza complesso in addentrarsi in questo labirinto cromatico, anche se poi alla fine appunto direi che ognuno deve scegliere le tonalità che gli sta meglio ed evitare come sempre, però è vero che alla fine la moda è anche questo ed è anche un po' per giustificare il fatto che ci sia una differenza, se no altrimenti non ci sarebbe, ma come ha spiegato molto bene Miranda in quel passaggio del Diavolo Veste Prada. Ma assolutamente, e meno male che c'è il ceruleo, meno male che c'è l'oceano, meno male che c'è il talco invece del celeste, dell'azzurro, del bianco, bene, perché altrimenti la moda non sarebbe quel grande business che è tutt'oggi. Concordo, ma adesso dopo che me l'hai spiegato ho capito perché non conoscevo il block, non è proprio il mio genere. Grazie Antonio, ciao, buona domenica. Grazie a voi, salve. Ciao, grazie. Colori, e dalla moda passiamo proprio a tutt'altro. E Marco Carminati, ciao, buona domenica. Ciao. Marco Carminati, critico d'arte domenicale del Sole 24 Ore. E Marco, e oggi parliamo di due artisti che hanno fatto dei colori, beh, come tutto, insomma, quando si parla di ovviamente la pittura, ovviamente i colori sono parte fondamentale, però Miró è particolarmente colorato e Klimt, che è l'altro artista, ha direi oro, no? Come fondo, sì, come certo. Elemento che lo contraddistingue. Da chi partiamo dei due? Ma insomma, partiamo forse da Klimt. Sì. Perché noi abbiamo l'opportunità nei prossimi giorni, a partire dal 24 di marzo, a Venezia, al Museo Correr, di vedere una mostra meravigliosa che viene da Vienna e che viene allestita in Italia, a Venezia, in occasione dei 150 anni dalla nascita di Klimt. Questo pittore, un pittore straordinariamente affascinante, che continua a rapire gli occhi anche dei contemporanei, perché è stato un pittore che ha creato al suo tempo una piccola rivoluzione, proprio basandosi su quello che dicevi tu, cioè sull'oro e sui colori. Klimt era austriaco, viennese, vive in una città e si forma in una città molto tradizionalista, l'ultima parte dell'Ottocento segnata dal governo di Francesco Giuseppe segna la trasformazione di Vienna, che diventa una capitale, però gli edifici che vengono costruiti sono tutti in stile, noi abbiamo lo stile classico, lo stile neomedievale, abbiamo i palazzi in stile rinascimentale, i palazzi in stile barocco, nessuna fantasia, e a un certo punto, verso la fine del secolo, una serie di artisti, tra cui anche Klimt, si stancano di tutta questa evocazione del passato e cercano di trovare un linguaggio che sia un linguaggio contemporaneo, e lo trovano appunto andando a toccare gli elementi della psicologia, che allora naturalmente nella Vienna di Freud erano argomenti per l'élite all'ordine del giorno, e poi nella decorazione, nell'affascino dell'oro. Tra l'altro Klimt aveva visitato più volte l'Italia, Venezia in particolare, ma anche Ravenna, dove andava a mangiarsi con gli occhi i propri mosaici, e guarda caso i fondi dei suoi ritratti, di questi suoi bellissimi ritratti soprattutto femminili, sono tutti interpunti, intessuti di questi fondali dove l'oro domina. Questa mostra racconta, tra l'altro, che Klimt non era solo in questo momento di grande creatività, si era creata una scuola che si chiamava la Secessione, la famosa Secessione viennese, dove erano presenti artisti, orafi, architetti, pittori, anche musicisti, credo, e no? Anche musicisti, insomma erano quei tentativi che ogni tanto nella storia culturale avvengono di creare la cosiddetta opera d'arte totale, cioè ci si sforza ognuno nella sua competenza di creare una grande opera d'arte totale, che per esempio per Klimt e per l'architetto Josef Hoffmann, che è l'altro protagonista di questa mostra veneziana, era il fatto di costruire, non so, dei palazzi, di decorarli, di costruire e realizzare i mobili, quindi di fare veramente un'opera d'arte totale. Chissà se il fatto che fosse orafo il padre di Klimt abbia influenzato in qualche modo questa scelta. Certamente, sì. Perché come spesso accade nella biografia di questi artisti, ci sono sempre dei motivi che nell'infanzia vengono indirizzati, e il fatto che fosse orafo lo porterà appunto ad osservare fin da bambino probabilmente stampe, libri e questi oggetti, poi vedere il padre al lavoro, e non a caso la mostra qui di Venezia ha insieme ai dipinti, ai disegni, ai modellini architettonici eccetera anche i disegni di queste oreficerie, perché naturalmente si concepiva lo sforzo creativo totale, quindi tutta la vita doveva essere ammantata da questa nuova questo nuovo filone artistico, che peraltro è presente anche in altre parti dell'Europa. Da noi per esempio questa sensibilità si chiamava lo stile Liberty, ecco, loro invece definirono la secessione questa novità, che tra l'altro venne compresa, come spesso accade, da un'elite di intellettuali molto avanzata, ma anche ostacolata dai tradizionalisti che guardavano questi dipinti, questi oggetti e soprattutto queste architetture con occhi un po' preoccupati. È sempre stato così poi, no? Ecco. Sì. Allora, questa è Klimt nel segno di Hoffman e della secessione. Siamo a Venezia, al Museo Correre, dal 24 marzo, quindi fra pochi giorni, fino all'8 luglio di quest'anno ovviamente. Marco Carminati, che ti chiedo di restare con noi, perché tra poco parleremo di Miró invece, i colori sono molto diversi in questo caso, dopo gli aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. Marco Carminati, dal secessionismo di Klimt al surrealismo di Miró. Sì, anche qui abbiamo la possibilità di vedere una mostra in Italia, in particolare a Roma, al Chiostro del Bramante, che dico per inciso è un luogo meraviglioso, perché appunto è stato costruito da questo grandissimo architetto, un piccolo gioiellino dell'architettura rinascimentale, del primo Rinascimento. Miró è stato un personaggio che ha creato dei segni con i colori attraverso questa sua interpretazione molto sanguigna, molto personale, molto spagnola della realtà, anche se lui non si sarebbe mai definito esattamente uno spagnolo, bensì un catalano, essendo appunto nato nella regione di Barcellona. Questa mostra ci dà la possibilità di entrare in contatto appunto con la gioia dei colori, questo messaggio artistico che è veramente intramontabile, perché io ho fatto l'esperimento più volte, avendo avuto qualche anno fa dei figli piccoli, e dove appunto mi accorgevo che il gradimento immediato di Miró era eccezionale. Miró è stato una persona che ha avuto la possibilità di una vita lunghissima, è morto negli anni 80 del Novecento, e è una serie di riconoscimenti internazionali, nonostante la sua patria, appunto la Spagna, fosse stata oppressa dal franchismo. Lui vive gran parte della sua esistenza fuori dalla Spagna, però lascerà alla sua città una serie di fondazioni, tra l'altro, per appunto continuare con la conoscenza sua, della sua arte, della sua sensibilità. E oggi può capitare, quando si va a Barcellona, di vedere questo bellissimo museo che si trova nella parte alta della città, con delle file perenne di persone che vogliono entrare. E io spero anche che ci sia un po' di fila anche nella mostra romana, perché appunto è l'occasione di contattare, di venire a contatto con un artista celebre attraverso una serie di opere che vengono dalla fondazione che, se non erro, Miró aveva istituito sull'isola di Maiorca, dove andava a fare le vacanze. Ecco, quindi insomma un'occasione anche per conoscerlo. Tra l'altro leggo qui con 50 oli di grande formato, per cui c'è molto da vedere, anche però terrecotte, bronzi, acquerelli, sì. Di conseguenza e anche tanti suoi capolavori. Credo che sia bella da vedere anche nel contesto ovviamente dove si è, ma da una parte siamo a Venezia con Klimt, dall'altra siamo a Roma con Miró, non c'è nient'altro da aggiungere se non andare a vederle, anche perché c'è molto tempo. Adesso darò di nuovo le date. Grazie Marco Carminati, buona domenica a tutti. Allora, ve le ricordo, siamo a Venezia al Museo Correre dal 24 marzo all'8 luglio con Klimt nel segno di Hoffman e della secessione. Invece la mostra di Miró si intitola Tra poesie e luce, poesia e luce, perché con queste parole Miró aveva definito Maiorca, e siamo a Roma fino al 10 giugno. La mostra è già da qualche giorno presente al Chiostro del Bramante. E dall'arte figurativa passiamo invece ancora all'arte, ma non figurativa. Credo che parleremo di cantanti, attori, attrici con Enrico Groppali. Ciao Enrico, buona domenica. Buona domenica a te. Allora Enrico, i colori, vabbè, sono degli artisti, sono artisti che non so, preferiscono indubbiamente un colore, si vestono sempre con quello, oppure al contrario lo odiano, non lo sopportano. Beh sì, se parliamo di artisti, per esempio abbiamo avuto un esempio eclatante in Lucia Bosè, che a un certo punto ha preferito l'azzurro, addirittura si è tinta i capelli d'azzurro e ha identificato l'azzurro con il colore degli angeli, avendo inaugurato non una mostra ma addirittura un museo vicino a Madrid, forse ispirata da quel bellissimo romanzo di Franz Werfel, una scrittura femminile Azzurro pallido, che Gabriele Lavia vorrebbe mettere in scena trasformandolo in un grande spettacolo. Ma ricordiamo però che questi contrasti proprio di colori, per esempio anche il bianco e nero delle tonache monacali, hanno ispirato per esempio una cantante come Milly, che in una canzone di Romolo Grano cantava il bianco, il nero e il falso, il vero. Non per nulla il rosso e il nero è il titolo del famoso romanzo di Stendhal. Non per nulla, tornando invece alle cantanti, a una cantante di musica leggera che è rimasta nel nostro cuore come Patti Pravo, che preferisce il verde, e la Callas invece che preferiva il nero, nonostante il collier che sfoggiava sempre fosse di un colore rosso. Ma il rosso ha ispirato grandi scrittori, basta ricordare Arthur Conan Doyle, che con uno studio in rosso, la sua opera famosa e che racconta le prime avventure di Sherlock Holmes, sì. Si è ispirato appunto a quello, o addirittura naturalmente il rosso poi ha ispirato i grandi maestri cinematografici dell'orrore, ricordiamo il profondo rosso di Dario Argento e prima ancora il segno rosso della follia del suo maestro Mario Bava, su una sceneggiatura in gran parte ispirata da un'attrice cantante famosa come Laura Betti. Vabbè, la teoria dei, è inutile rifarsi la teoria dei colori di Goethe, ma per esempio invece ci sono stati invece dei grandi attori, dei grandi cantanti, dei grandi scrittori che si sono ispirati al bianco. Pensiamo a Tennessee Williams, di cui ricorre da pochi mesi il centenario della nascita, e che nel suo titolo più famoso, un tran che si chiama Desiderio, che adesso poi trionfalmente è stato riportato alla luce sia in Francia che in Italia, addirittura a un colore, il bianco, ha ispirato il nome della sua eroina, Blanche Dubois, resa famosa nel film di Kazan da Vivien Leigh, in coppia con lo straordinario Marlon Brando. Però poi ci sono anche altri colori, per esempio Kazuo Ono, un grande artista giapponese che vale la pena di ricordare, morto vecchissimo sui 95-96 anni, a un lontano festival di Nancy che lo laureò proprio sul piano internazionale, danzava i no giapponesi in una sua originalissima rielaborazione, anche lì però accompagnato dalla musica e dalla musica di Donizetti e dalla voce della Callas. Aspetta Enrico, ti fermo qui, poi vedremo di quale colore si tratta, c'è il GR e poi ti risentiamo. Il riposo del guerriero. 16:06 minuti, riprende Riposo del Guerriero. Vi ricordo il numero verde, perché alle 11:30 giocheremo con il mistero in 24 minuti, per voi la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it. Il numero verde è 800 24 00 24. Oggi, visto che la primavera si sta avvicinando, magari non con il clima però con la data sicuramente sì, parliamo di colori e colori virati in tanti modi. Stiamo parlando dei colori di scrittori, attori, cantanti. Enrico Groppali, critico teatrale cinematografico, ci stava raccontando. Da dove ripartiamo, Enrico? Dunque, ripartiamo dal bianco, il nero, il falso e il vero della canzone di Milly. Sì. Perché il bianco è un colore inquietante. Ricordiamo La signora delle camelie, il celebre romanzo di Dumas. Perché si chiamava Alphonsine Duplessis, poi diventata Marguerite Gautier nel romanzo La signora delle camelie? Lo spiega lei stessa in una riga del libro. Una volta al mese le camelie erano rosse anziché bianche. I miei amici, i miei conoscenti, i miei amanti sapevano bene qual era il motivo di quel repentino cambiamento di colore, quando il mio corpo era disponibile e quando il mio corpo non lo era. e addirittura arriviamo invece a un romanzo oggi dimenticato ma ancora famoso come titolo, Tre abiti bianchi per Alessandria, autrice Nancy Priario, che racconta la tragica svolta della vita di un personaggio amato da D'Annunzio come la principessa Alessandra Starabba di Rudinì Carlotti, la quale in Tre abiti bianchi per Alessandria simboleggiava la sua vita, il bianco naturalmente dell'abito della prima comunione, il bianco al color bianco della sua relazione con D'Annunzio e il bianco della sua uniforme di suora del Carmelo, dove a un certo punto, finita la turbolenta relazione con il grande poeta, si inabissò tra le converse di questa grande istituzione religiosa che contribuì, se non a fondare, a diffondere in Francia. Quindi anche il bianco è un colore inquietante quanto il rosso. Ricordiamo che il famoso mago Udini, per esempio, prediligeva, una volta che gli fu chiesto qual era il suo colore preferito, il bianco, e rispose: il bianco spuma, perché il bianco del mare nel quale mi inabisserò e poi risorgerò trionfante. Purtroppo non fu così, si inabissò nel mare in una specie di grandissima scatola di metallo con pesi e contrappesi per dimostrare che l'uomo può vivere anche a contatto delle atmosfere più diverse, nelle situazioni più impensabili e più pericolose. Era il bianco spuma delle onde, il bianco spuma dell'oceano, che lo riconciliava con il bianco ammagliante, a suo dire, della potenza divina e dell'aldilà. Sì, nella quale lui credeva moltissimo. Nella quale credeva, certo. Moltissimo, certo. Ecco, la cosa, adesso vi dico una cosa agli ascoltatori, Enrico. Beh, la cosa difficile da fare quando avete Enrico Groppali come ospite, o semplicemente così, quando state conversando con lui e non sapete come interromperlo, perché potrebbe andare avanti, credo, per ore, giusto? Vabbè, siete molto gentili, ma non arrivo a tanto. No, arrivi e come? E infatti non so mai, quando dico, chissà se avrà finito, nel senso che, oppure ha ancora cose da dire, capito? Quindi non so quando posso interromperti. Beh, quando puoi e quando vuoi. C'è per esempio però anche un colore tendenzialmente non tra i quattro colori, come sì. Il grigio. Il grigio era il colore preferito, per esempio, da un'autrice morta qualche anno fa, ma ancora molto presente nel nostro immaginario, come Françoise Sagan, che era stata la risposta, per esempio, al mito degli hippies, al mito anche della libertà creativa e della libertà sessuale negli anni 50 con il suo famoso romanzo Bonjour Tristesse, che è rimasto non solo famoso nell'immaginario, ma addirittura in quegli anni fu tradotto, forse non lo sapete, addirittura in latino con il titolo Tristizia Salve. E lei preferiva il grigio perché diceva che il grigio, contemplato dai tetti di Parigi, era quel colore indefinito che sta tra la passione e la rinuncia della passione e l'ascetismo. Quindi anche questi colori di mezzo, per esempio, anche queste strane tinte che non si sono ancora decise né per un verso né per l'altro, né per lo splendore della primavera che hai evocato più avanti, quindi con il suo verde, il suo giallo, il suo rosso, eccetera, eccetera, o con il nero addirittura, che simboleggia la morte, la fine, se non la rigenerazione, vanno tenute presente. Però Hemingway, per esempio, in Acque del Sud, il film che era stato tratto dal suo famoso romanzo Avere e non avere, preferiva il blu cobalto, che identificava non solo con l'onda ma con la continua rigenerazione delle immagini che gli si affacciavano nella sua mente. Quindi abbiamo un'infinità anche di colori che stingono l'uno nell'altro, si sopraffanno l'uno nell'altro. Pensiamo, Stendhal addirittura con il rosso e il nero simboleggiava la morte, simboleggiava la vita, simboleggiava addirittura la nascita, per esempio, di un nuovo essere umano. Stranamente, invece, Marilyn Monroe, nelle ultime immagini che di lei, ancora bellissima, ci rimangono, scattate sulla spiaggia di Malibu qualche tempo prima, qualche giorno prima del suo suicidio, diceva di preferire l'arancio, perché l'arancio era un misto di giallo, di rosso, le ricordava l'aurora, le ricordava il fuoco incrociato del tramonto, le ricordava l'azzurro del cielo, quell'azzurro che poi a volte può stingere addirittura nel nero, mentre Simone Signoret, memore del suo grande film Casco d'Oro, per tutta la vita aveva fatto una raccolta, per esempio, di piccoli gioielli che le ricordavano il biondo grano dei grandi campi della sua Alsazia nativa. Ecco, quindi, qui ti devo fermare, Enrico. No, perché veramente andremo avanti all'infinito, perché Enrico continua a legare cose, per cui finché non lo fermate va avanti. No, rido perché è un piacere ascoltarti, davvero è un grande piacere. E io so, adesso Enrico, che c'è Francesca Dragotto che ti ha ascoltato con molta attenzione e che mi ha rimproverato, perché la settimana scorsa ti avevo interrotto per dare spazio poi agli altri e mi ha detto no, dovevi farlo andare avanti adesso, quindi mi rimprovererà ancora. Grazie Dico Groppali, ma ci sentiamo la settimana prossima. Buona domenica, grazie ancora. Buona domenica anche a te e a voi la vostra trasmissione. Grazie, ciao. Francesca, buongiorno, come si fa a interrompere Groppali? È impossibile, ero qui che stavo ascoltando, un po' affascinato, mi sono anche perso. Condivido. Allora, parliamo di colori anche con te, da dove cominciamo? Questa volta invece che da questioni etimologiche iniziamo da costruzioni lessicali, quindi modi di dire, forme complesse organizzate intorno a nomi di colori. Ecco, va bene, allora anche con te abbiamo un'altra ora e mezza, allora con la dottoressa Dragotto. Dai. Più o meno, considerando che ne ho trovate un centinaio solo con il colore che ho scelto, direi che potremmo andare avanti per tutta quanta la domenica. Quindi appunto anticipo che ne ho scelto uno soltanto e intorno a quello costruirò un piccolo discorso. La prima cosa da dire, che però vale per tutti i modi di dire legati a colori, è che intorno a queste forme si addensano quelle che potremmo chiamare istanze, da una parte riconducibili a come si percepisce l'ambiente circostante, in parte spiegabili nell'ambito della simbologia e in parte frutto di una convenzionalizzazione. Questo significa che per capire un certo modo di dire dobbiamo necessariamente ricorrere alla conoscenza della storia e della cultura relativa alla lingua in cui quei modi di dire si usano. Come conseguenza di questa miscela di fattori abbiamo da una parte locuzioni che ritornano in maniera pressoché identica in più lingue e dall'altra parte invece modi di dire che ritroviamo specificamente all'interno di singole lingue. Facciamo qualche esempio a questo esatto, punto. Visto il clima primaverile, il fatto che insomma la stagione si sta per avvicinare, ho scelto il verde. Etimologicamente verde viene da una parola virdes, che è la variante parlata del latino classico viridis, che, questo è un dato interessante, proviene dal verbo, quindi l'idea di essere verdi precede la lessicalizzazione, quindi la parola che esprime il verde stesso, è come se la condizione, l'essere verde, fosse più importante della qualità in sé. Verde è quindi il colore della natura, indica la fine dell'inverno, l'inizio della rigenerazione e da qui tutti i modi di dire che hanno a che fare con il verde speranza. Però c'è anche una controparte che lega il verde alla morte, perché verde appare l'incarnato di chi sta male, la sua pelle. Simboleggia inoltre invidia, gelosia e in questo si alterna con il giallo. Dobbiamo però immaginare che questo accostamento di significati apparentemente opposti all'interno della valenza di un singolo colore non è un fatto inusuale. I giapponesi ad esempio spiegano questa coesistenza dicendo che le valenze dei colori sono fatti talmente profondi che difficilmente possono essere compresi e spiegati attraverso il linguaggio verbale, quindi sono difficili da spiegare. Andando direttamente alle locuzioni seleziono le più interessanti. La prima, la più diffusa, è pollice verde, in francese si dice mano verde, tu la citi spesso perché sostieni di avere il pollice viola, probabilmente sì. Molti dicono il pollice nero, nero perché sia nero che viola in realtà, perché vengono associati per percorsi diversi all'idea della morte, certo. Mentre appunto il verde è quello essenzialmente legato alla vita. Abbiamo poi la croce verde delle farmacie, quasi ovunque, quindi indipendentemente dalle culture, forse per la speranza di ottenere soccorso e forse per la stessa ragione abbiamo il numero verde a cui ci rivolgiamo se stiamo cercando delle risposte. Un aiuto, quindi aspetta, Francesca, ti interrompo un attimo e ci sono aggiornamenti sul traffico e continuiamo a parlare delle altre frasi che hanno il verde. Il riposo del guerriero. Eravamo arrivati alla croce verde delle farmacie. Sì, vado a quelli che ritengo più interessanti. Il tappeto verde da gioco per simboleggiare il gioco d'azzardo e la locuzione essere al verde. Per quanto riguarda la prima, quindi il verde per l'azzardo, una delle spiegazioni più probabili attinge dal mondo del teatro. Sembra infatti che il colore verde sia un colore abbastanza difficile da fissare sulle stoffe e che per questa ragione venissero utilizzati dei solventi che poi potevano risultare velenosi al contatto con la pelle degli attori. Ecco, questo è il motivo del perché il verde in Francia teatro porta sfortuna. E in particolare in Francia questo fatto ha subito un'ulteriore spiegazione, perché c'è chi dice che Molière in occasione della sua ultima rappresentazione fosse vestito di verde e quindi a partire da quel momento in poi naturalmente il verde sarebbe diventato evocatore di morte. C'è però una seconda interpretazione che ha a che fare sempre con la messa in scena di un ruolo, in questo caso di Giuda, che ritroviamo però prima nel Medioevo. E quindi per il fatto che Giuda fosse vestito di verde si sarebbe sviluppata l'idea del verde portatore di una connotazione negativa al teatro. Naturalmente siamo nell'ambito di quella stessa superstizione che per quanto riguarda l'italiano ha portato alla tabuizzazione del viola a teatro, questo per via dei paramenti liturgici che durante il periodo di Quaresima sono viola, e quindi essendo periodo di Quaresima i saltimbanco, gli attori non potevano esibirsi, quindi non guadagnavano. Esattamente, e quindi da lì l'idea del viola che porta sfortuna in teatro. Veniamo invece a una locuzione che soprattutto in questo periodo va molto di moda, essere al verde. Ecco, questo è vero che è la riga delle candele quando stavano per consumarsi, oppure è una diceria? Anche nelle prime attestazioni la forma essere al verde alterna con essere la candela al verde, perché c'era l'abitudine di tingere di verde la base delle candele. Questo significa che il verde diventava visibile soltanto nel momento in cui tutta quanta la cera si era consumata. Quindi... Ecco, mi viene in mente questo, siccome tu accennavi al verde come cambiamento, no? È il colore che determina il cambiamento, il passaggio a una cosa nuova, e quindi forse era stato scelto il verde perché dovevi cambiare la candela da quella usata con una nuova, forse è per questo che hanno scelto il verde e non un altro colore. Adesso la butto lì, Sì, è possibile, in tutta onestà non so dare una risposta certa. È anche vero che la possibilità di vedere la fine della candela poteva anche essere d'aiuto proprio in virtù della sostituzione della candela stessa. Sì, quindi, per quello. Sì, poi perché sia stato scelto proprio il verde come tinta da dare alla base delle candele? Beh, te l'ho detto io adesso senza nessuno studio, e quindi ho sicuramente ragione. Sì, non è tutto, ma magari ci sono ovviamente. A volte le spiegazioni intuitive colgono nel segno, altre volte no, però sicuramente una ragione ci doveva essere, altrimenti non sarebbe stato fatto, perché è proprio la base. Abbiamo altri modi di dire, altre locuzioni, ad esempio ridere verde, troviamo che in alcuni autori, penso a Grazia Deledda invece, è ridere giallo, che equivale a dire ridere in modo forzato, in riferimento appunto a un riso non sincero. C'è poi sputare verde per indicare una forte arrabbiatura, ma anche appunto il risultato di un travaso di bile, far venire a qualcuno o farsi venire il sangue verde, il famosissimo far vedere i sorci verdi, che fa riferimento al fatto che nell'aviazione ci fosse un reparto che aveva 3 topolini verdi rappresentati sulla fusoliera degli aerei e che appunto a un certo punto erano diventati per antonomasia il simbolo di riconoscimento di quel reparto che primeggiava su tutti quanti. La curiosità è che a un certo punto quel reparto fu battuto da un gatto nero e quindi da un gatto, e che quel piatto divenne nero proprio perché aveva annientato i sorci verdi. A livello di curiosità c'è da segnalare, parliamo adesso di lingua, la lingua ad esempio l'esperanto, la lingua che è stata creata per essere da Zamenhof per essere una lingua internazionale, quindi un qualcosa che dovrebbe sostituire l'inglese in funzione di lingua veicolare. Allora, l'esperanto, nome che ha a che fare con la speranza, ha una bandiera, e questa bandiera ha come simbolo una stella a 5 punti, e questa stella ovviamente è verde. È verde. Come verde è lo sfondo della parte della bandiera su cui non c'è la stella. Verde ritorna in tantissimi proverbi, in primis toscani, ma non solo. Il primo infatti è pane italiano, cioè lo usiamo in tutta Italia, ed è la speranza, è sempre verde. Meno utilizzato, ma non per questo meno interessante, è amicizia e nemistà non sta ferma in verde età. Questo per significare che quando si è giovani è facile passare dagli amori agli odi, dall'amicizia alla forte inimicizia, anche per ragioni amorose. C'è poi caricarsi di legna verde, che sempre appunto in ambito toscano sta per pigliare brighe inutili e faticose, proprio perché il legno verde quando brucia fa molto fumo per via, credo, della clorofilla e non della linfa. È ancora umido, sì. Sì, è ancora presente e quindi appunto fa riferimento all'inutilità dell'operazione. Poi la cosa sorprendente, se si inizia a sfogliare un repertorio lessicografico, quindi un dizionario ben attrezzato per l'italiano, è la vastissima, enorme quantità di nomi di colori che sono sfumature del verde: verde bianco, verde biondo, verde bottiglia, verde bruno, verde cupo, verde dorato e così via. Potremmo arrivare a una trentina di sfumature che sono scritte in un'unica parola, questo a testimoniare che non si tratta di aggettivi che modificano il verde, ma proprio di colori che vengono visti come nuovi, collegati sia al verde, ma differenti, pregnanti, e che probabilmente si sono sviluppati all'interno di linguaggi specialistici in cui poteva essere necessario distinguere anche con parole differenti due sfumature. Un po' come prima ci raccontava quando parlavamo di moda, il nostro ospite, sui colori della moda, che hanno sempre un nome diverso da quello che ci si possa aspettare. Francesca, grazie e vabbè, speriamo che questo essere al verde sia usato sempre meno al posto che sempre di più in questo periodo. Grazie, buona domenica a tutti. Ciao. Io non so se il verde possa essere un colore adeguato, ma mi sa che sulle persone non lo è affatto. Gerry Romani, ciao, buona domenica. Buongiorno Stefano. Allora, Gerry Romani è quello che noi definiamo tecnicamente Lucifero in italiano, non è un nome proprio, però insomma si usa dire Lucifero, perché in inglese sarebbe Lighting Programmer, cioè il programmatore delle luci. Esistono persone che fanno un mestiere fondamentale per tutte le cose che vediamo, quando andiamo a teatro, quando assistiamo a un concerto, quando assistiamo all'inaugurazione, per esempio, di un grattacielo come il Burj Khalifa di Dubai, che è alto soltanto 828 metri. Le luci sono fondamentali per dare forza, vita, risalto, ma anche per mostrare le cose in un modo totalmente diverso da come sarebbero senza le luci. Ci vuole un'arte, è complessa, ci vogliono tanti anni di esperienza. Gerry Romani insegna anche quest'arte oltre a farla. Io non vi leggo il curriculum perché potrei cominciare adesso e finire penso fra qualche giorno. Gerry, ho dovuto far così perché dovevo presentare il tuo mestiere, è difficile, gli ascoltatori nessuno lo sa, pochissima gente immagina cosa c'è dietro a uno spettacolo, a parte l'artista che è giustamente sul palco, o in questo caso questo attore era appunto in questo piazzale di Dubai, però dietro c'è una macchina molto, molto complessa, ci sono degli studi, come tu giustamente hai detto, ci vogliono tanti anni di esperienza, non solo perché cioè essere capaci così di manovrare questi computer, queste console, chiamate appunto console luci, per muovere queste macchine chiamate motorizzati, hanno vari nomi. Ecco, bisogna anche decidere quali installare, no? Esattamente. Per esempio, normalmente non è sempre un nostro privilegio quello. Molte volte vai anche, è anche il cliente che dice: guarda, vorrei fare questa cosa, vorrei usare queste macchine. Ecco, c'è sempre una via di mezzo. Ecco, anche perché ve le trovate già installate, per esempio quando si va in un teatro è già pronto l'impianto luci, c'è già e bisogna usare quello che c'è, però a volte invece va costruito, parliamo di un concerto, quando si parte da zero, e quindi si possono e si devono anche decidere quali tipi di luci vanno utilizzate, ce ne sono di veramente moltissimi tipi. E io mi concentrerei su una cosa, anzi su due. La prima è questa esperienza che hai avuto per il Burj Khalifa, perché oltre alle luci c'erano la musica e i fuochi d'artificio, tutto doveva andare insieme. Sì, anche l'acqua. E anche l'acqua. L'acqua sincronizzata con i fuochi artificiali, con queste luci distribuite dietro al Burj e sui ripiani di questo palazzo, e tutto sincronizzato perché doveva dare un senso, questa musica è fatta apposta per questa inaugurazione. Era tutto sincronizzato appunto con musica creata apposta da un'orchestra di francese e è tutto che c'è con gli occhi, puoi ascoltare e anche vedere. Ecco, ma la mia curiosità è questa. Intanto quanto tempo ci è voluto a fare le prove? E poi le prove dove le avete fatte? Non credo che abbiate dovuto farle direttamente con i fuochi d'artificio attivi e tutto attivo, perché la gente avrebbe visto prima l'inaugurazione in quel esatto. caso. Ecco, quindi come avete tutto sulla carta, com'è che avete fatto a capire come poi sarebbe stata l'inaugurazione? Nel 2010 abbiamo fatto delle prove con qualche macchina distribuita appunto sopra a questi ripiani, sono delle specie di dei balconi, ecco, un po' sì, grandi, sì. Abbiamo delle piscine comunque. Certo. E ho messo appunto queste luci per fare delle prove. Poi abbiamo preso la macchina, siamo andati circa 3-4 km di distanza, l'abbiamo accese, abbiamo guardato l'effetto, abbiamo valutato che lampade appunto utilizzare. Dopodiché io c'ho un programma in cui sono anche insegno anche che posso praticamente costruire in tridimensionale la struttura o il posto dove ho questo spettacolo, questa location, e con il mio computer luci pilotare le lampade virtuali dentro nel computer. Ecco, quindi tu virtualmente hai già visto cosa avrebbe dovuto accadere, poi è stato fatto veramente e penso che sia andata anche molto bene, giusto? Sì, sì, per fortuna. Ci sono anche le immagini su internet, il video potete anche vederlo ed è uno spettacolo. Siccome abbiamo pochissimo tempo, anzi abbiamo già sforato, però volevo chiudere con te, volevo chiedervi invece della parte insegnamento, perché dovete sapere che Gerry Romani è assolutamente trasversale, insegna Mediaset, in Rai, gira per il mondo e quindi insomma non sei destinato a una cosa o all'altra, ma veramente a tutti. Che scuole si possono fare? C'è posto? Nel senso, è uno sbocco per il futuro? Quanti lo fanno? Hai toccato un punto che dovremmo stare al telefono. Allora facciamo una puntata apposta sui mestieri curiosi. No, l'abbiamo già fatta, ne faremo un'altra. Io per mia sfortuna o fortuna, dipende, ho imparato sul campo. Purtroppo l'unica cosa che io posso spiegare brevemente è che in Italia ci sono pochissime scuole, c'è il Politecnico di Milano che ha un'ala apposta per insegnare le luci, light designer, e noi stiamo cercando appunto in Italia di muovere un attimo questo problema, perché non c'è quasi nulla. Io per esempio non sono considerato in Italia come light designer, io sono il tecnico e basta, ecco, però faccio disegni, firmo disegni, ma non sono considerato. Ecco. Basta leggere la tua biografia per capire cosa fai nel mondo oppure con quali grandissimi artisti internazionali sei stato per lavorare con loro, però anche molti italiani. Allora io invito soltanto gli ascoltatori ad andare sul sito jrr.it, che sta per Gerry Roberto Romani, leggere tutto e poi in una puntata ti dedicherò più spazio e racconteremo proprio il tuo mestiere dal punto di vista proprio pratico, cosa poter fare. Grazie Gerry, ciao, buona domenica. Ciao. Subito il gastronauta. Non è ancora pronto, allora vi ricordo il numero per partecipare, che tra poco poi ci sarà il mistero in 24 minuti. 800 24 00 24, le previsioni del tempo. Il riposo del guerriero. Attenzione, è il momento di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere su librerarizzoli.it. Un mistero in 24 minuti. 5 indizi per voi, ma si parte dal primo, si parte con un montepremi di 1000 euro e dovete risolverlo grazie alle canzoni che vi faremo ascoltare. La risposta può essere come sempre una notizia della settimana, un personaggio o qualcosa di particolarmente conosciuto. Queste sono le possibilità e il numero per prenotarsi 800 24 0024 e il primo indizio è questo. Credo che Cecilia da Bergamo abbia riconosciuto molto bene questa colonna sonora. Ciao Cecilia, buona sì, domenica. Buongiorno signor Gallarani, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie, la bella e la bestia erano Gino Paoli e Amanda Sandrelli. Questo è il primo indizio, abbiamo 1000 euro. Cecilia, cosa vuoi fare? Mi è venuto in mente Cocciante. Perché? perché è stato la colonna sonora che è stata utilizzata durante il musical Bella e la Bestia, già mandato, è già uscito in ecco, quindi il tuo legame è proprio con la Bella Bestia usato come colonna sonora. Esatto. Cecilia, se fosse giusto per te sarebbero 1.000 euro, non lo sapremo fino allo scoccare del 24esimo minuto. Grazie, buona giornata. Grazie a lei, buongiorno. Paola da Monza, buongiorno. Buongiorno. Allora Paola, sì, hai canticchiato la canzone mentre sì, proprio così, proprio per certe parole ho pensato alla soluzione subito. Allora, che cos'è la soluzione? E secondo me è l'allineamento di Giove, Venere con la Luna, che è avvenuto il 13 di questo mese. Chi lo sa? Grazie, ciao. Grazie, buona giornata. Luciano da Catania. Sì. Buongiorno. Buongiorno a lei. Sono le esplosioni solari. Neanche un indizio in più, proprio così. Secco, va bene. Altri 1.000 euro potrebbero essere, io non posso dire assolutamente, mi fa ridere questa cosa perché avete tutti una risposta completa. Sai che a volte si va lì vicino, no? Invece oggi è proprio completamente ognuno da una parte propria. Grazie Luciano, buona giornata allora. Caldo delle esplosioni e tutte queste altre belle cose. Grazie. Va bene così. Grazie. 800240024, Manuela da Verona, buongiorno. Buongiorno. Sì. Allora Manuela, Sì, io invece associo la canzone al manifesto sulle ali dell'Aquila, questo progetto OCSE che riguarda l'Abruzzo verso il 2030, oppure, ovvero come costruire una regione rendendola alta. Grazie Manuela. Prego. È alta anche la tua risposta, buona giornata. Saluti. Ciao. Mario da Napoli, buongiorno. Buongiorno Stefano, saluto a tutti gli ci segue. Grazie, senti, gli 1.000 euro sono ancora qua. Un altro aiuto. Ecco, facciamo così, andiamo a 500 euro, sì, dici. Sì. Va bene. Allora, questa è una canzone che sicuramente tu conosci, sì, ma la conosciamo tutti, perché l'abbiamo cantata più o meno tutti. Noi siamo figli delle stelle. Un po' la voce alla Sylvester che ha Sorrenti e il tiro sicuramente molto americano della dance di quegli anni, insomma questa canzone è stata un grandissimo successo, ma ancora oggi si ascolta veramente volentieri perché il tiro dei Figli delle Stelle è proprio bello da ascoltare. Tra l'altro c'era Filippo Aureggi che è in regia in questo momento e che saluto, e stava ballando, perché quando fate sentire a Filippo qualcosa anni 80, niente, lui gode, ecco, diciamolo, perché proprio è la sua vita. Allora Mario, ancora. Io purtroppo non sto fuori fase, però posso dire, dico una fesseria, la benzina che va alle stelle. Il prezzo della benzina. Ma guarda, non è fesseria per niente, voglio dire, è proprio una bestia, ecco, visto che il primo indizio era la Bella e la Bestia. Grazie Mario, ciao, buona. Grazie a te. Siamo a 500 euro con due indizi. Beh, questo era Figli delle Stelle, Alan Sorrenti, ma l'avevate capito. Da Natalia, credo, Natalia, non lo so, da Brindisi. Sì, pronto, buongiorno. Dove metto l'accento? Natalia o Natalia? Natalia, allora, che cosa vuoi fare? Allora, io posso avere un'altra... Un altro indizio? Va bene, allora sì. Andiamo a 300 euro, ma dopo gli aggiornamenti sul traffico. Il profilo dei monti col sole al di là è la pioggia di marzo, è quello che è la speranza di vita che porti con te. Sì, è quando tu voli, rimbalzo delle stare da soli, la rosa lo yo-yo, nina o nina, è un dolore però, tanto male non fa, la pioggia di marzo è quello che è, la speranza di vita che porti con te. La versione italiana di una traccia famosissima di Jubin, cantata da Mina, la pioggia di marzo, questo è... Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. Va bene. Dicevo, questo è il terzo indizio. Siamo a 300 euro, Natalia. Allora, io volevo buttarmi un po' sullo scontato, però adesso sta canzone mi sta portando da qualche altra parte, la metto un po', che è un condensato delle altre due risposte che avevo in sospeso. Allora io dico la situazione contingente dell'Italia adesso è un po' come quella dell'austerity fine anni 70, eccetera, eccetera, cioè benzina alta, gente che si dà da fare in modi alternativi per far fronte a quelle che sono le nostre... Ecco, tu dici il parallelismo fra i due momenti storici. Sì, ecco, sì, anche perché li ho vissuti. Io ho vissuto quegli anni 70, ero una ragazzina, quindi conosco bene le due facce che si incontrano. Grazie Natalia, buona domenica, grazie. Grazie a voi. Ciao. Mille, grazie. Giuseppe da Monza. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ciao. Allora, abbiamo 300 euro e nessuna risposta giusta, ma diciamolo, va? Così. Mamma mia, che responsabilità. Ma siamo anche fuori strada proprio, ma perché è più semplice, molto più semplice di quanto possiate pensare. Abbiamo altri indizi anche, magari il quarto indizio potrebbe aiutare molto. Quarto indizio, avanti. Bravo. Grazie. Giuseppe, che mi hai capito. Eccolo qua il quarto indizio. Let's all celebrate and have a good time. Celebration. We go celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? Stai ballando, Giuseppe? Sì, stiamo ballando, il gruppo d'ascolto sta ballando. Meno male, sono molto felice. Questi erano i Kool & Gang di Celebration, per cui festa, celebrazione, festeggiamenti, insomma, Celebration, questo. I Kool & Gang, sì. Siamo in grande crisi. Non ci posso credere. Celebration, mamma mia. Ma senti, ritorniamo sulla nostra idea iniziale, che è l'inizio della primavera. Giuseppe, non è la risposta giusta, però ci sei vicino in qualche modo, voglio dire, cioè nel senso che siamo lì. No, vi aiuto perché siamo a 200 euro, quindi mica tanto. Certo. Che rabbia, però non è quello, mi dispiace. Ciao. Non viene un'altra? No. Ciao, grazie. Maria Pia da Roma, buongiorno. Buongiorno. Ciao. Maria Pia. Ci sono finiti, vero? No, ce n'è ancora uno se vuoi. Se gli do l'ultimo, indovini. Allora l'ultimo. Eccolo qua. Quel gufo con gli occhiali. Che sguardo che ha. Lo prendi, papà? Sì. La lepre in tuta rossa. Che corse che fa. Lo prendi, papà? Sì, quel canarino si è ferito e non lo lascio qua. Me lo prendi, papà? Lo prendo se vuoi, così guarirà. Maria Pia, è scaduto anche il tempo, questa era Sei forte, papà, Gianni Morandi. La tua risposta, Maria Pia? Nonostante tutto non sono riuscita a capire, per cui la butto lì, perché tutti gli indizi mi hanno ricordato soltanto una bellissima persona che è scomparsa, Lucio Dalla. Grazie Maria Pia, ciao, grazie, buona domenica. Grazie. Che rabbia, non so se chiedere ad Antonio, dai, 15 secondi, se non risponde rigioca. Antonio, ciao. Pronto, Antonio? Da Salerno. Buongiorno. Sì, ciao, buongiorno. Antonio. Tu la sai la risposta? Dimmi solo sì o no. Che sembra così facile, ma. Dilla, vai. Ci ha confuso un po' le idee. Non lo so, io ho pensato. Ho sentito che è stata annunciata una pioggia. Ciao, Antonio. Ciao. Io non ho mai sentito Antonio. È tutto per questa domenica. Ci sentiamo la settimana prossima. Arrivate la soluzione. Era la festa del papà, la bella e la bestia, perché Gino Paoli e il papà di Amanda Sandrelli hanno cantato insieme Figli delle Stelle. La pioggia di marzo si festeggia il 19 marzo. Celebration, perché è una festa. Sei forte, papà, perché l'ha detto. Grazie a tutti. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, in assistenza. A Filippo Reggi in regia, a voi che avete ascoltato, continuate a farlo, tra poco c'è Si può fare, noi ci sentiamo domenica prossima, buona settimana da Stefano Gallarini.